Vendo tutto di Matteo Caccia. Tra poco più di due settimane siamo a Riva del Garda. I racconti e i desideri continuano ad arrivare. Storie di abiti, di automobili, di biciclette ed orologi. Desideri di viaggio, di ringiovanimento, di patenti e di brevetti. Voi continuate a scrivere, io continuo a vendere. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io me ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un paiolo. Il braccio era diventato grosso come una gamba. Nei mesi successivi, elettrostimolazioni e a casa una grande forza di volontà. E dopo 2 mesi un piccolo movimento del mignolo mi diceva che il braccio l'avrei recuperato. Non completamente, ma abbastanza per fare i miei lavori. Ad aiutarmi in questa impresa un kit di rafforzamento braccio. Valore commerciale 45 euro. Desidero liberarmi di questo kit perché per me la vita è ricominciata in quel fiume e i ricordi di chi mi ha salvato saranno sempre nel mio cuore. E poi, un kit di rafforzamento braccio alla fine è sempre un kit di rafforzamento braccio, però anche un masto di 7 quintali è sempre un masto di 7 quintali. Sono le 16:07 minuti, questa è Vendo Tutto, io sono Matteo Caccia. Invece il pezzo che ho letto è un pezzo scritto da Massimo Fontana, che partecipa al concorso Vendo Anch'io. L'oggetto che vende, se l'avete capito, è un kit di rafforzamento per gli arti superiori. La sua storia è una storia bellissima, la stiamo leggendo insieme alle altre che ci mandate e la stiamo valutando. Per il momento grazie mille Massimo, però fossi in voi io comincerei a preparare i bagagli per Riva del Garda. Se volete partecipare al concorso, il concorso si chiama Vendo Anch'io ed è molto semplice. Se avete voglia di liberarvi di un vostro oggetto perché non ce la fate più e perché magari volete liberarvi insieme con l'oggetto di un pezzo di voi, fate quello che io sto facendo dal 18 di gennaio. Scrivete un racconto di una pagina, non di più, che racconta la storia di quell'oggetto e quindi un po' anche la vostra storia. La mandate a vendotutto@radio24.it insieme a una piccola biografia e a un desiderio da realizzare. Noi selezioneremo i 5 migliori racconti, sarete a Riva del Garda con noi sabato 19 giugno in una grande serata finale in cui si eleggerà il vincitore del concorso, si farà un'asta degli oggetti di quei 5 oggetti dei finalisti e il vincitore si prenderà in moneta sonante i soldi con cui realizzare il suo desiderio. Il progetto e il concorso si chiama Vendo Anch'io, trovate tutto sul sito radio24.it. Ammazza, ho detto tutto giusto, filo, hai sentito Paolino? Sono le 16:09, buongiorno a tutti, 349-238-6666, 800-24-0024, mancano ormai un paio di settimane a Riva del Garda. Ricordo, come ricordava prima Laura Faggin, che la scadenza del concorso è l'11, ma tu mi hai detto, ricorda la scadenza, ho detto sì certo, ma non mi ricordavo qual era, è venerdì 11 di giugno, quindi avete ancora 10 giorni buoni per partecipare al concorso. Riva del Garda alla fine è un po' la sagra delle radio, giusto, Riva del Garda, visto che ormai con giugno ufficialmente comincia non solo l'ultimo mese di Vendo Tutto, ma comincia la stagione delle sagre qui in Italia e quindi visto che oggi racconto di un paiolo che è stato una sorta di premio, adesso vi racconterò meglio com'è andata, che ho vinto ad una sagra, oggi vorrei fare proprio una mappatura, semplicemente, di tutte le sagre di questo paese. Se vivete in un paese in cui a breve comincerà una sagra, avete presente, di solito sono sagre alimentari, certo che ce l'avete presente se abitate in un paese in cui c'è una sagra, però quelle sagre che sono tipo, prima la Faggina ha citato delle sagre che non so se sono vere, adesso io le dico però, tipo la sagra della ficattola, che è una sagra della focaccia, mi dice lei, vicino a Firenze. La sagra della pizzonta, che è una roba abruzzese. La sagra della ranocchia fritta, che è una roba di dove? Umbra ovviamente, arriva da Bonini. E poi una volta avevo partecipato a una sagra che era la sagra dello stoccafisso, però prima di mangiare lo stoccafisso lo si lanciava, era una sorta di gara chi lanciava più lontano lo stoccafisso. E poi la sagra del culatello. E poi 800240024 349-238-6666. Non dovete per forza essere nella proloco del paese ed organizzare voi la sagra, dovete semplicemente essere di quel paese e mi raccontate qual è il paese e che sagra è. Perché poi un'altra cosa delle sagre è che non è mai tipo la sagra del prosciutto crudo, no, è sempre la sagra del prosciutto crudo stagionato 24 mesi in stagionatura umida con una temperatura sotto i 12 gradi centigradi da dicembre a giugno, cioè sono sempre molto particolareggiati i nomi delle sagre. 800240024 349 238 6666 sono sagre ovviamente e non sono sacre. È una mappa delle sagre del nostro paese, perché magari avete voglia di fare qualcosa in questo fine settimana e non sapete dove andare, e una sagra comunque vi risolve sempre il fine settimana. E poi c'entra a fare la sagra, fa subito Italia. 80024 0024 349 238 6666. Veniamo alla mia di sagra, quella in cui ho vinto più o meno il paiolo che vendo oggi. Per vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia, eccoci qui. Il paiolo in rame. Paiolo di rame, dimensioni, altezza 25 cm, diametro 45 cm. Perfetto per prepararci la polenta o come sottovaso. Valore commerciale 30 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Non ho mai capito il fascino degli oggetti in rame, però capisco chi li vuole lucidare, perché l'odore dell'aceto, strofinato su quel metallo, ha un effetto inebriante, quasi come una droga. Il paiolo che vendo oggi ha un aspetto sobrio, che rispecchia il modo in cui ci immaginiamo i bei tempi passati. Seri. Anzi, seriosi, direi. Io trovo effettivamente che il grande limite del passato è che si presenta a noi nei racconti degli anziani, no? Che chi più chi meno si sono costruiti una reputazione nel tempo, invecchiando, una dignità che svanirebbe se raccontassero le sciocchezze che hanno fatto da giovani. Sì, perché tutti, anche i vecchi gentiluomini rispettabili, sono stati dei giovani stupidi una volta. Ecco, questo paiolo mi sembra un maturo signore con un passato di cui ci si vergogna, e venderlo per una volta mi fa piacere. Allora, sto paiolo mi fu regalato qualche anno fa da un tizio abbastanza improbabile, quando facevo lezioni di vela sul lago di Como. Per chi non lo sapesse, sull'estremità nord del lago di Como c'è sempre un sacco di vento. È un vento di caduta. Si chiama vento catabatico, ma non siamo qui a parlarne. È un vento perfetto per andarci in barca. Per un paio di estati avevo tenuto un corso in un circolo lì, dell'Alto Lario, è il nome di quella zona. I miei allievi in quell'estate erano per lo più professionisti, insomma persone serie della zona, gente che il mare non l'aveva mai visto, perché lì la gente lavora e in vacanza non ci va. Un bel giorno si presenta a lezione questo tizio, signore di una certa età, abbastanza distinto, che vuole imparare a navigare, però non vuole indossare il giubbottino di salvataggio. Io comincio a insistere, a dirgli che effettivamente lo deve indossare il giubbottino. Lui con un certo fastidio mi dice che è il sindaco di un paese vicino, paese di cui non farò il nome. E me lo dice credendo che ciò gli dia il permesso di non indossare il salvagente. Ecco, non ho mai capito perché i politici, per il ruolo che a loro è dato dalla comunità, credono di poter restare sopra le regole anche nelle piccole cose, perfino quelle che servirebbero a salvargli la vita. Vabbè, lui insisteva, io gli dissi: oh, allora o col giubbottino o niente. Che poi sto tizio non era proprio un politico. Sì, a modo suo, era più che altro uno che aveva avuto successo con un negozio di souvenir e poi si era candidato a sindaco. Avete presente di quelli che va in giro che, anche se c'ho 70 anni, ti do una lezione quando voglio io a te? Insomma, il tizio non mi stava molto simpatico, però alla fine si arrese e si mise sto giubbottino. Però salì in barca che era molto nervoso. Appena si alzò il vento, lui a tutti i costi volle prendere il timone, per farmi vedere che lui lo sapeva già maneggiare, che era un lupo di mare, di lago in quel caso, e che fare il capitano di vascello lui c'era tagliato, che io ero solo un ragazzino presuntuoso. Io feci appena in tempo a girarmi che la barca scuffiò. L'acqua era gelida e io mi misi a cercarlo per dargli un pugno in faccia, solo che non lo vedevo. Lui era rimasto imprigionato al di sotto della barca, sotto la vela, quindi mi tolsi il giubbottino e andai a riprenderlo. Lui era lì che si diminava come una trota e faceva un sacco di bolle con la bocca. Io lo tirai fuori e lo caricai sulla barca. Lui mi guardò con gli occhi di uno che chissà cosa aveva visto e mi disse: mi hai salvato la vita. E io tra me pensai: ti ho salvato la vita, sì, imbecille. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, è strana. Basta una persona, devo dire che l'episodio del quasi annegamento del sindaco non è che mi abbia lasciato proprio indifferente. Anche se lì per lì facevo il superiore mi presi un bello spavento. Quindi quel giorno sospesi le lezioni e me ne tornai a casa. Il giorno dopo il sindaco mi chiamò con una voce completamente diversa da quella del giorno prima. Era gentilissimo. Sembrava quasi una persona per bene. Mi disse che aveva organizzato una seduta straordinaria della giunta comunale per sabato pomeriggio, dove avrebbero discusso se conferirmi la cittadinanza onoraria del paesino. Dovevo assolutamente partecipare. Io, dopo qualche... Ma no, guardi, non è il caso, grazie. Ma no, mi sembra troppo, non esageriamo. Insomma, alla fine cedetti e tempo 2 giorni mi ritrovai di nuovo in cima al lago di Como, imprigionato in una sorta di festa paesana improvvisata a base di vino e di polenta, una specie di sagra. Il sindaco, padre padrone, aveva organizzato tutto per rendere omaggio a chi gli aveva salvato la vita, secondo lui. E non perché fosse diventato buono. Ovviamente no. L'aveva fatto semplicemente per non sentirsi in debito. Quindi organizzò una grande cerimonia in cui mi consegnò il simbolo di quel paese. Un paese che non dirò. Il simbolo era il paiolo in rame. Arrivarono tutti, gli alpini con il bimbrulé, i panini con la salamella, la banda del paese, perfino il gruppo di danze tradizionali della Proloco. Una serata assurda, in cui la gente mi veniva a salutare con gli occhi lucidi per aver salvato la vita del loro primo cittadino. E anche se provavo a dire che non sarebbe morto perché aveva sul giubbottino salvagente, non c'era niente da fare. Alla fine salì sul palco e il sindaco mi consegnò questo paiolo, dicendo che la polenta lì dentro viene più buona e che così mi sarei ricordato per sempre di loro. E giù applauso. Ecco, per me questo paiolo in rame è la vita di quel sindaco imbecille. E io l'ho sempre usato come portavaso. E adesso lo vendo. Il suo valore è di 30 euro. La base d'asta sono 99 centesimi. Se avete sagre particolari, 80024 0024. Una fregia e un fantasma in su la veranda. Barbera come petroli e anche alla luna me par che sbanda. Cadriga che fa frecas e buca aperta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le 10:20, questa Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Vendo Tutto, e invece a Castagnaro di Verona mi parlano della festa del cavolo. Strano però che sia solo del cavolo e non tipo del cavolo cappuccio, del cavolo nero, del cavolo con le verze. Sagra della salama da taglio a guarda ferrarese. A me la parola salama fa ridere, perché non capisco perché il salame, cioè il salame è sempre maschile e poi ogni tanto diventa femminile. Sergio, dimmi perché si chiama salama. Minuscolo borgo sul Rio del Po, guarda ferrarese. Primavera del Prosecco, col Bertaldo di Vidor, Franco. C'è la sagra del toro a Buia, in provincia di Udine. E poi ancora, la sagra della rana e del pesce, della rana e del pesce, in dialetto piacentino, a Soarza, in provincia di Piacenza. 80 persone della Proloco insieme per celebrare questo evento. Ormai è appena terminata, 20 quintali di pesce gatto, rane e pesce di mare venduti, fritti, in 3 giorni. 80024 0024, si parla ancora di sagre di paese, anche se rimaniamo in provincia di Milano. Andiamo da Emanuele. Pronto Emanuele? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Mi hai fregato. Io sto bene, tu come stai? Bene, grazie, bene. Senti, di che paese sei? Allora, io sono di Cologno, però ho fatto un po' di anni a scavare in uno scavo archeologico vicino a Udine. Ok, perché sei un archeologo. Ero. Adesso sei un consulente archeologo. Adesso sono un po', sì, più o meno. Cioè, nel senso adesso che ho cambiato mestiere e faccio l'educatore. Ma perché facendo l'archeologo non si vive? No, assolutamente no. Scusa, allora uno bisogna, che fa... bisogna avere del proprio. Ma quindi cos'è, un hobby fare l'archeologo? Sì. Io ho come studiato, sì? Mi sono... Sì, perché... Scusami, se esiste, di solito mi insegnano che se esiste una laurea in qualcosa, poi quello diventa un lavoro, no? No, non necessariamente. Ah, ok, perfetto. Devo parlare con i miei amici ingegneri, secondo me non sono proprio d'accordo. No, ma l'archeologia è tutta un'altra cosa, okay. Perché poi vai a fare tutt'altro. Quindi adesso dicevi che fai, Emanuele, scusami? Adesso faccio l'educatore. Perfetto, infatti sei fermo con le 4 frecce, mi sembra di sentire. Sì, sono in macchina, sto andando dal ragazzo che devo educare, con cui devo stare, esattamente. Okay, senti, allora veniamo alla sagra di quale paese e di cosa? Il Pozzuolo del Friuli, uh-huh. È un paese vicino a Udine, e si tratta della sagra, tu non ci crederai, ma si tratta della sagra dello struzzo. E cosa si fa? Si mangia carne di struzzo? Esattamente. Ah no, credevo ci fossero gli struzzi, tipo il paglio dello struzzo. Io ho mangiato uno squisito spezzatino di struzzo. Beh, ma che la adesso non capisco niente, però è carne rossa, però con i principi della carne bianca, una roba del genere, cioè senza colesterolo. Guarda, com'è buona? Una carne molto particolare, ha un sapore tutto suo, sembrerebbe pollo ma non è pollo, è un pollo però più grosso. Okay. Eventualmente guarda, sentiamo Cruciani che ci parla della carne del gatto, lui è sicuramente più esperto di noi. Grazie mille Emanuele, buona giornata. Prego, ciao, ciao, alla prossima. Frosinone, Silvestro. Sì, buonasera. Ciao Silvestro, buonasera. Sì. Tu organizzi sagre oppure ci partecipi? No, io partecipo. Diciamo, io sono di Frosinone, però la sagra si trova nel comune di Esperia, provincia di Frosinone, sì, uscita autostrada Cassino, e la sagra è della Marzollina. Cioè? Come marzo, Marzollina. Cioè che è un formaggio? È un formaggio caprino che viene fatto, diciamo, prima fatto nel mese di marzo, quindi con, diciamo... le pecore e le capre mangiavano diciamo l'erba appena certo, che più particolare di così si muore, Silvestro, non è solo la sagra del caprino, è proprio di quel caprino mangiato, sì, dalle pecore. Infatti, sì. Tu cosa fai di mestiere, Silvestro? No, io sono geometra, mi occupo di antincendio. Ah, ok. E però vai alla sagra della Marzollina, mi dici quando è? La sagra della Marzollina è il sabato prima di Ferragosto. Ah ok, quindi siamo ancora in tempo. Sarà attorno al 10-11 di agosto. 10-11, cioè, quindi varia un po' secondo le giornate. Comunque nella prima decade di agosto c'è questa sagra, che normalmente c'è tantissima gente e si mangiano diciamo, le cose, queste zolline assieme con le olive, che sono le famose olive nere di Gaeta, che in effetti vengono fatte a Esperi e poi sono state commercializzate a Gaeta. Quindi... Silvestro, grazie mille, guarda, starei ora a sentirti, però ci sono altri che mi raccontano di sagre. Buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Andiamo precisissimo, Silvestro è proprio un signore, un geometra quasi. Andiamo in provincia di Bari da Francesco, pronto? Buonasera, ciao. Ciao Francesco. Francesco. Ciao. Precisamente dalla provincia, dalla nuova provincia, BAT, BT, la nuova provincia pugliese. Cioè Bari-Taranto? No. Barletta Andrea Trani. Ah, scusami, io addirittura no, invece che aumentare le avevo diminuite le province. Bari Taranto no. Certo, ovvio. Uno dice, facciamone una. Giusto. E come ci si trova in una nuova provincia? Ma guardi, per me per ora non è cambiato niente, anche perché dicono che c'è, però io non me ne sono ancora accorto che ci sia. Stanno litigando tra di loro per chi si deve prendere i vari uffici. Senti, a invece non ci interessa. Invece la sagra dove si trova? La sagra del Sospiro e si svolge a Bisceglie, che è la mia città, una città sul mare, 54.000 abitanti, molto grande, bella. 5 chilometri di spiaggia, bellissima, veniteci, che bella. Va bene, sei della Proloco? Non faccio parte della Proloco, pareva. No. Quando è amo la mia città. Ma... Allora, il Sospiro è un dolce tipico nostro, fatto di pan di Spagna, crema e ricoperto da una glace di zucchero. Ha tradizioni che vanno intorno al fine 700-800. Senti, dimmi quando è, poi ti saluto, che le date. Allora, la sagra viene fatta nel periodo d'agosto, la data non è mai la stessa, la oscillano. Certo, comunque, perché veniteci. È sembra la seconda domenica dopo il plenilugno, partendo dal 21 di marzo. Grazie Francesco, l'ultima telefonata, ciao. Andiamo in provincia di Ferrara da Franco. Pronto Franco? Buonasera. Buonasera. Che tipo di sagra abbiamo da promuovere? Volevo segnalarvi due sagre, tutte e due a Berra, in provincia di Ferrara. Sì. Hanno trasformato quella che è una piaga della nostra zona, cioè la zanzara, in una sagra. Ed è una cosa unica a livello mondiale. E cosa si fa la sagra della zanzara? Si mangia le zanzare? Ma ci sono manifestazioni, campionati, carattere culinario, eccetera, però il colpo di genio è trasformare una piaga in un qualcosa di ci sono ci sono tipo unico. Campionati di chi più ammazza più zanzare in 5 minuti, robe del genere. Non ho ancora assistito, ma comunque ci sono potrebbe essere un'idea. Iniziative che ogni anno rinnovano. Io adoro la racchetta elettrificata eventualmente per le zanzare. Franco, dimmi l'ultimo al volo che devo chiudere. E poi sempre a Berra, per merito dell'iniziativa di una coppia eccezionale. Immagino. Che hanno inventive. No, devi dirmelo Franco, devi dirmi che poi devo chiudere. Devi dirmi che cos'è. La sagra del bruscandolo. che è un'erba particolare della zona, figurati, e anche lì ovviamente raccolta in certe particolari dopo la pioggia, dopo il primo solstizio d'estate. Grazie mille Franco e buona giornata. Prego. Ciao, alla prossima. La salama non è un salame, è un insaccato paradisiaco che si può mangiare. E che vuol dire? Pure che si può spalmare, che si può col cucchiaio. Perfetto, grazie a tutti, a Fangin che mi fa i segni, a Bonini, a Genovesi, a Paulino Corleoni. Il paiolo è sul sito, domani vendo una maglia da pallavolo. Voi, se avete ricevuto invece un regalo dal sindaco, mi raccomando, tenetelo da conto, che un regalo è sempre un regalo. Love, love, love, wherever you get it.